contano il nulla, perché lo spirito guida è morto. La vita e la morte a questo punto sono l'unica causa. La sorte ha sempre controllato il tutto in fondo. Costretti a vivere nella notte e a fuori.